Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Andate a vedere. Attaccare! Se si votasse sì, sarebbe, come dire, quello che già conosciamo, sarebbe l'Europa della Merkel e di questo suo cuginetto italiano che si chiama Matteo Renzi, che infatti è sempre d'accordo con lei, finge di contestare l'austerità, parla di grandi scenari politici europei e poi alla fine è sempre d'accordo con il, forse olandese Renzi, non lo so. Questo è Civati, Civati. Va bene Tsipras a tenere sul punto della democrazia, poi sbaglia su tutto il resto, perché non ha fatto alcuna riforma, perché sta portando la Grecia in un vicolo cieco, però almeno chiede al suo popolo come la pensa. Ma lei si fida del risultato che possono proclamare di un referendum, cioè, come si chiama lì? Brogli? Ma insomma, Varoufakis e Tsipras, cioè, ma lei comprerebbe una macchina usata da Tsipras? Sì. Varoufakis che ha scoperto i grandi alberghi. Ma questo lei lo sa, cioè, perché già... L'ha visto, no? È un comunista al caviale. Vabbè, però insomma, scoperto, già, insomma, c'aveva la moglie, la terrazza, già prima di fare ministro, guarda, insomma. Natale in Grecia, io spero che diventi un cinepanettone. Sono tutti amici di Tsipras adesso, tutti amici di Tsipras, perché fa chic anche da destra, no? Avete sentito anche Brunetta dire Tsipras magari ha sbagliato tutto il resto, però il concetto di sostenere il popolo, e questo è un concetto capibile. Anche Salvini oggi fa un'intervista al Sole 24 Ore, non spunta da frigoriferi ma dal Sole 24 Ore, a dire Il popolo deve decidere, no? Il popolo con un referendum. Ieri è successo questo, dovevo 30 euro a un amico che mi aveva detto me li restituisci entro ieri, me li aveva prestati e io gli ho detto no, non te li do, però pretendo che continui a volermi bene, anzi gli ho chiesto se me ne dà altri 20 perché avevo bisogno di fare un'altra spesa, Sentivo un po' greco ieri, un po' greco, e ho festeggiato con un Rezzina Butari questa mia insolvenza, così, perché io non gliela facevo ieri a dargli questi 30 euro, che dovevo fare? O mangiavo ieri o gli davo indietro i soldi. In tutto questo il più onesto intellettualmente è l'onorevole Maurizio Bianconi, che ho sentito dire io sarei per il ni, ma piuttosto pur di vedere la Merkel soffrire voterei no se fossi greco. Ecco, forse il concetto è questo, non è più diventata una questione di merito, cioè chi ha ragione, chi non ha ragione. Detto per inciso, la Grecia deve restituire 21 miliardi al Fondo Monetario Internazionale, soldi che non Tsipras ma i governi precedenti si sono presi con molto piacere quando c'era bisogno di aiuti, sostegni. Ieri dovevano restituire la prima rata da 1 miliardo e 560 milioni, 1 miliardo e 560 milioni, ma Tsipras ha detto io non pago, non ce li ho, non pago. E però non si entra più nel merito, appunto, è una questione di essere pro o contro Angela Merkel. Come che ha detto Civati? Forse Renzi è olandese, è il cugino della Merkel. Infatti oggi Renzi va dalla Merkel, per la verità è un bilaterale che era fissato da tempo. Renzi va dalla Merkel, mentre Beppe Grillo ha già detto che sarà domenica e lunedì ad Atene per sostenere i greci. Allora, questa è 24 mattino, sono le 6:33 minuti. La vera notizia di tutto questo è che ancora 17 sveglie all'alba e poi in vacanza. Peter Vescapè? 10? 9? 8? 7? No, 9 sveglie all'alba e poi... Tu Lorenzo Nespoli? Lorenzo Nespoli come me, 17, andiamo in vacanza, no, dice, quanto ho detto? 5, 10, 15, 3 settimane più 2, giovedì, venerdì, 17. Allora, 6:34 minuti, eh? Voglio salutare subito la nostra Paulina, grandissima Paulina, amica del mercoledì. Paulina spiritosa. La nostra Paulina spiritosa. Paulina fiore di rosa. La nostra Paola. Ma buongiorno, Saluzzi. Ma che poeti che siete. Buongiorno. 2015. No, e viva basta, le rosse tutta la sta sigla. E viva la Paola. È meravigliosa. No, Paola, la Saluzzi. La voglio. Paola Saluzzi, special guest. Paola, avviso subito tizi di cui non ce ne frega il nostro nulla. anonimo sì, come si dice, siglatore, autore di sigle l'adorato autore di sigle che ne attendiamo due nuove per l'anno prossimo, ovviamente. Ma per la prossima stagione questa io me la tengo registrata, sì, ma questa rimane... la metto come suoneria questa rimane negli annali, cosa vuol dire. Allora, nostra Paola Saluzzi di Sky e... caro Alessandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche a te. Buongiorno anche al nostro Dir, Super Mega Dir. Eccolo. Buongiorno. Buongiorno Dir. Dai Luca, 3 settimane poi in vacanza. Nel senso, non so se vai in vacanza, ma comunque non ti chiameremo più alle 6:30, promesso. Vado. Va bene, vabbè, dai, ce la puoi fare? Il mercoledì diventa il mercoledì del direttore, un programma di approfondimento di Luca Dini, con l'insolita presenza di Paola Saluzzi, che è un altro tizio di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Vabbè, dai, apriamo anche il Parlamento, che ci siamo tutti. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Allora, vorrei capire, tanto Paolo, anche tu immagino che di Grecia anche oggi tornerai. Grecia. Siamo tutti greci, ma no, ma nessuno vuol vedere fallire. Dire le cose come stanno sembra che dire le cose più scomode ti attira tutte queste accuse. Ah, vuoi fare fallire? Ecco, subito. Allora chiediamo alla Grecia, alla Germania, i debiti non pagati alla fine delle due guerre, che è un contenzioso che è stato in realtà affrontato. Vabbè. Comunque vorrei il vostro parere. Dai, Paola Saluzzi, ti senti un po' greca? Assolutamente. La prima soluzione che si deve trovare è nel rispetto delle persone che hanno subito il peggio da questa crisi. Persone che hanno subito il peggio vuol dire anche gente che ha finito di vivere per colpa di una crisi. Pur tuttavia, un governo che va a trattare non si alza da tavola. Sì. Non si alza da tavola, detto così sembra da mangiare dal tavolo, se ne va e dice: sapete che c'è, decidete voi. Beh, anche se gli impongono condizioni che a questo governo non piacciono. Ma non sono state ascoltate le ultime condizioni. Le ultime condizioni di Juncker non erano state neanche ascoltate, audite, va bene? E si fa un referendum che è un meccanismo che assolutamente parla di democrazia e si può adoperare, sì. Ma scrivendo prima il no sulla scheda. Ah, vabbè, ma questo è geniale. E stampando al lato la richiesta su la versione di Juncker vecchia. Vabbè. Allora, questo secondo me non è esattamente un voler, non profuma di voler salvare il proprio paese, profuma di voler salvare la propria poltrona, con tutto che Tsipras ha detto no a certi modi di fare in Europa, no a certi modi di fare sicuramente di una troica, ma hai detto bene. I soldi vanno restituiti, signor Varoufakis, che io ancora mi sto chiedendo, perché in realtà lui sia il ministro dell'economia, io no, e ci mancherebbe meglio così per qualsiasi paese, ma che fa? No, ma adesso è messa così, la battaglia è se tu stai, perché in Italia dobbiamo schierarci. Ma non è una partita di calcio, ma infatti io per terra, ho delle idee banali, ma di una persona che legge le cose così, e cioè penso che quando leggo come ieri che in Grecia si va in pensione a 55 anni, si va in pensione con uno stipendio che è con una pensione simile a quella della Germania, peccato che in Germania Germania gli stipendi sono doppi rispetto alla Grecia, quindi vuol dire che in Grecia si va con, che ne so, l'80% dello stipendio in pensione, mentre in Germania col 50%. Ecco, giusto per dare. E questo non vuol dire essere merkeliani. Ma no, ma no, ma no, perché non è che non è che vince Merkel o perde Tsipras, perché tanto Merkel e la Tsipras avranno sempre il culo parato entrambi, ecco, anche Varoufakis, che ha già detto: ma se va male io me ne torno a Washington a studiare, a insegnare all'università, ma chi se ne frega, a guadagnare soldi qua? No, ma per oggi dire non pago, oggi non pago, ma come non pago? No, ma per dire che loro cadranno sempre in piedi, la Merkel sicuramente, sì, sicuramente, e Varoufakis pure, e Tsipras pure, e i governanti greci pure. Ma lo sapevano da 4 mesi che ci fosse questo problema da risolvere, da 4 mesi, è come dire a Natale non sono preparato per il Natale, lo sai da un anno che viene Natale. I 580 lavori usuranti a me ancora colpiscono, tra questi lo sai, cara Paola Saluzzi, che lavoro usurante c'è in Grecia, no, considerato usurante? Chi parla in TV o in radio? Oh, bello! Per favore. Vabbè, insomma, chi parla in TV? Mentre i direttori di giornali, no, caro Luca Dini, tantomeno i direttori di settimanali che si permettono di uscire solo una volta a settimana, debosciati. E invece, tu, caro Luca, che idea ti sei fatto? Io la mia idea è che la democrazia è bella, ma in Grecia il referendum l'avevano già votato, quando hanno detto sì ai miracoli promessi da Tsipras, che non può e non sa mantenere. Quindi secondo me lui non vuole salvare la poltrona, vuole salvare la faccia rovesciando la frittata sul popolo. Sul popolo, esatto, cioè a dire sostanzialmente, esatto, volete vivere o morire? No, ma mi sembra un po'... Io non trovo un gesto di coraggio, Sì, il coraggio sarebbe stato dire: io vi ho promesso una cosa che non vi posso dare, cioè riuscire da questa situazione con meno sacrifici. Questa è la verità. Sì, poi dopodiché devo dire che questo non vuol dire, perché questa è la cosa che mi fanno più arrabbiare quelli che mi accusano, non vuol dire essere per le banche, la burocrazia, per il gruppo Bilderberg. Semplicemente, se io ti presto 100 euro e tu non me li puoi restituire perché sei in difficoltà, bene, ma se ti vai a comprare un paio di jeans, vai al ristorante, vai al cinema. Alessandro, posso aggiungere? Ho votato un uomo che ha detto: usciremo da questo guado. Bene, se uscire dal guado vuol dire arrivare a 36 ore dal non a 36 ore, oggi è il primo luglio, quindi sì, arrivare a un passo e dire: sai che c'è, non gioco più, me ne vado, si alza e se ne va, e votate voi. Che politica è questa? Sì, per carità. No, vabbè, insomma, adesso però siamo perché tutti... Perché mette nei guai anche il suo popolo, cioè, fosse chiara la cosa, che mette nei guai quei greci che sono, per carità, con gli stipendi, con le pensioni, tutto quello che vuoi tu, ma sono veramente messi malissimo. E sì, non è una questione di supremazia. Le banche, benissimo, forse c'è da riscrivere tutto per quanto riguarda. Ma no, ma non vuol dire difendere le banche, non vuol dire che la Merkel è buona, che le banche sono giuste. Perché Tsipras è buono e Varoufakis è buono, per loro, gli altri che hanno presentato i conti visibilmente in quello che era rosso l'hanno fatto diventare nero pur di entrare in Europa, hanno mentito. C'è da dire i precedenti politici, però giustamente come qualcuno ha detto, alla fine il conto arriva, cioè, e poi dispiace che a pagarlo debba essere questo governo, ma ripeto, non lo paga il governo, lo pagano sempre le persone. Lo sapeva poi, scusami. Si è fatto eleggere con queste promesse. Il governo precedente stava risanando il debito con dei sacrifici maggiori. È arrivato lui e ha detto: no, si può fare in un altro modo. E poi, però, quando non è riuscito a farlo, il modo è farsi andarsene. Vabbè, non è questione di essere pro contro me, che non c'entra niente. Si tratta di avere responsabilità e rispondere delle proprie parole. Insomma, diciamo che sono in realtà poi si tratta nella notte, pare che ci sono le trattative fino all'ultimo per cercare come dire di risolvere un pochino. Soprattutto mi trovo odioso chi dice bravo, cioè, chi insomma si esprime su questa cosa, come dici tu, non nel merito ma per suoi fini elettorali propagandistici qui in Italia, in senso, di fare un giretto appunto da quelle parti a vedere come stanno, che cosa vuol dire poi fare quello sparato, che cosa si paga. Vabbè, intanto arriva un buon Mirko da Genova che ci dice: cara Paola, sei buona come il pane con la Nutella. Questa è la migliore che mi potesse dire. Non lo so, non c'entra molto con la Grecia, c'entra un po' più con la Francia. Con la Francia, esatto. C'entra magari con i nostri rapporti con la Francia. Ma questo è. E Madame Ségolène, va bene. Madame Ségolène, vabbè, dai, esatto. Andiamo avanti. Tanto la Grecia ce la porteremo avanti per un po'. Vedremo anche domenica che succede. Vi voglio far sentire questo simpatico leghista. Il leghista nero, sapete che la Lega ha il leghista nero perché così fa trendy, non lo so, pare che si chiami Diop, si era anche candidato alle ultime regionali, credo nelle Marche. Sentite qual è il sogno del leghista nero Diop. Sì, l'ho scritto, sogno un'Africa fascista, sì, perché sarebbe veramente un orgoglio nazionale forte, si risveglierebbe, cioè l'Africa ha bisogno di avere un'identità. Sogno un'Africa fascista per avere un'identità. Radio Cusano Campus, il pacato leghista Diop, così la vede. No, ma intanto, per risvegliare un'identità. Non è uno scherzo, esatto. L'Africa in parte fascista, peraltro c'è già stata. Non mi pare che mi piacesse. Non ha funzionato benissimo, no? No. Cioè, sì, in parte sì, voglio dire, però l'identità non direi. No, infatti. Paola, non è uno scherzo. Era anche compiaciuto. Vabbè, di questa. Mi appello alla Crucianiana Ambulanza. Va bene. Ambulanza per Diop. Ambulanza per Diop che si deve districare anche nel traffico, non Diop, ma l'ambulanza. E allora, ma mandiamolo al traffico in Angola. Sentiamo come va il traffico in Angola, a Luanda oggi. Vi raccontiamo il traffico. Mina e Danny, se sul posto del traffico, va? 24 mattino. Mina, ma che si può fare per collare Marino da quella poltrona? Ha rovinato Roma, si sta rovinando, quella è un incapace. Milan, c'è poco da fare gli spiritosi con i privilegi greci. Credi che qui in Italia sia tanto peggio o tanto meglio? Pensiamoci un momento. Ciao. Ma perché non si dice niente su questi magnifici operatori di borsa che ad ogni stormir di fronda fanno saltare miliardi di qua e di là, speculano in modo spregiudicato? Sì, buongiorno dottor Milan. Ma cosa ti è successo, dottor Milan, in questi due giorni? Sei particolarmente frizzante e la tua voce risulta cambiata. Mi sa che sotto sotto c'è qualcosa. Marino, Marino, Marino, ti voglio al più presto abbracciare. O mio borgomastro, no, non te ne andare, non farti influenzare, oh no, no, no, no, no. Marina, Marino, Marina, ti voglio al più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio. Invece Ignazio Marino ha avuto una colica renale, io le ho avute, sono terribili, sono una cosa molto molto dolorosa. Tutto a posto però, Paola, il sindaco è tornato al suo posto? Abbiamo notizie che sia bene, sia meglio, non so se sia già tornato. Sembra il posto. Bollettino medico del Gemelli, abbiamo notizie che sia meglio. Che il paziente. Quindi, per carità, insomma, ha ricevuto soprattutto, come è ovvio che fosse. Esatto, ad abbastanza nutata, e anche per lui, mamma mia, le coliche renali. Sì. Sì, ma credo che sia stata una delle notti più tranquille degli ultimi tre mesi. Esatto, rido senza mancare di rispetto, ma questa è una gran battuta. Sì, siamo è pronto per nuovi combattimenti. È pronto per nuovi combattimenti, evviva. No, tranquillizza la signora che mi sente con una voce frizzante. No, signora, mancano 17 giorni alle ferie, forse, forse è questo. Forse è il countdown che comincia a vedere un suo arrivo, è lo striscione dell'ultimissimo chilometro, più o meno. Ma è successa una cosa gravissima, cara Paola Saluzzi, che vedo su Vanity Fair oggi. Vanity Fair che tra l'altro pubblica in copertina una straordinaria Laura Antonelli, proprio straordinaria, nel senso che ci sono delle foto della sua bellezza incredibile è portata via così. Ma c'è una cosa molto molto grave che devo denunciare pubblicamente, cara Paola. Mentre un paio di settimane fa noi eravamo qui a combattere, io e te, sì, e cercavamo anche di telefonare a un numero che risultava spento. Questo costui svergognato oggi, possiamo dirlo perché lo leggiamo su Vanity Fair, era alla scoperta della DAC. Che cos'è la DAC? L'ultimo ti cos'è, Luca? Che oggi ne scrivi il direttore. È un posto pazzesco, lo chiamano il piccolo Tibet, l'ultimo Tibet forse. L'ultimo Tibet. Quello vero è stato un po', diciamo, devastato. Ma dov'è? È in nord dell'India. Nord dell'India. Dove non prendono i cellulari, mi risulta. Non prende niente proprio. Infatti. Una settimana senza internet e nulla. E come hai fatto? Come hai fatto con la redazione, la riunione di redazione? Non sei di quei direttori che ti prendeva la fregola a dire: oddio, cosa sta succedendo? No. Niente. Ma voglio dire, una telefonata al giorno è più che sufficiente. Cioè, vecchi metodi, bravo, esatto. Riuscivi a farla? Sì, riuscivi a farla. Domani. Riuscivi a fare la telefonata, sì. Sì. Solo quello però. Sono qui dalla DAC. Come va? Tutto bene? Vabbè, insomma, oggi ne parlo. Devo dire che ci sono anche delle foto bellissime. Testo e foto di Luca Dini. Attenzione, sono anche le foto di Luca Dini. Incredibile, cioè, capito, cara Paola Saluzzi? Niente di che. Con un iPhone? Sì. Hai visto? Giusto per ma fare. Si riesce oggi con l'iPhone. Se sei bravo, si riesce anche con l'iPhone. È vero. Vabbè, insomma, alla scoperta della DAC su Vanity Fair. Oh, che dobbiamo fare? Va bene, dopo aver fatto sentire Diop, vi voglio fare sentire un altro che è certo. Cosa c'è, mamma mia? Io sto ancora pensando, vabbè, non sa niente. No, vabbè, allora dai, ti faccio pensare in maniera più pacata al Shor Gentilini. Hai presente chi è Gentilini? È la mattinata così. Preferisco Diop. Preferisci Diop? Rimandiamo Diop. Prima risentiamolo bene. Diop vuole l'Africa. Esatto. Facciamo un contest. Secondo voi, quale di queste due dichiarazioni vince la dichiarazione dell'anno? Diop, leghista nero. Sì, l'ho scritto. Sogno un'Africa fascista? Sì, perché sarebbe veramente un orgoglio nazionale forte. L'Africa fascista, cioè, l'Africa che risveglierebbe un orgoglio nazionale. Allora, poi attenzione, sentiamo Gentilini, leghista, ex sindaco di Treviso, e dopo mi dite i voti. Gentilini: non ho nulla contro i gay e le lesbiche, ma che restino nei loro recinti. Io non posso tollerare la forma di esibizionismo e di tentativi di massacrare la famiglia naturale. Vabbè, l'esibizionismo. Comunque, insomma, restino nei loro recinti gay e lesbiche. Forza, le palette sono pronte. Allora, Paola Saluzzi, voto alla Diop. Esibiosismo? Dai, su. Esibiosismo? Dai, è un po' anziano. Esibiosismo? Io Dai. Non voto con palette, ma solo con padelle di ferro. Oh, la padella. Voto solo con padelle di ferro su cui è scritto il voto, e il voto corrisponde ad una simpatico. Sì. Appoggiare l'oggetto sulla testa del concorrente. Va bene, questo a Diop, ma anche a Gentilini. No, entrambi. No, mi sento molto molto democratica, non oserei mai 50-50. Vabbè, invece padella che una paletta a testa, una 50-50, padella. Una padella a testa. Secondo Lello da Vicenza vince Gentilini per KO. Luca. Luca. Ma non tecnico, è proprio. Tu Luca, chi fai vincere? No, io penso che lui dovrebbe restare nel suo recinto, anzi nella sua stalla. Nella sua stalla, sì. Va bene. Ecco. Perché, ma povere mucche, poveri cavalli. Esatto, però da solo. Invocherei la legge Mancino per queste persone. La legge Mancino addirittura? Sì, sì, sì. Ah, accidenti, sì, sì. accidenti. Basta fare uscite quando sei oltretutto una persona pubblica con responsabilità. Vabbè, la legge basta. Mancino, basta. Effettivamente un po' basta. Allora, ci fa sapere Roby da Milano che ha avuto anche lui una colica renale recentemente, ma non ha avuto il bollettino medico di Paola Saluzzi. Mi prenoto per la prossima, no? Che non ci sarà, dai, Roby. Non ti abbandonare. No, dai, su. Ma neanche il mal di pancia, neanche. No. Però va bene. Ah, giusto. Forse anche questo ascoltatore ha dato uno spunto interessante sulla questione della Grecia, dove dicono che è usurante parlare alla radio. Ci scrive Davide: forse parlare alla radio è un lavoro usurante per chi ascolta. Oddio, certe volte talvolta sì, Davide, non mi chiama così. Anche la televisione. Anche questa è una lettura non male. No, vabbè, non dice male. Siete grandi, grazie, sto scherzando. Va comunque bene. Non fate esibiosismo. Non fate esibiosismo. Vi voglio non lasciare col mitico Vittorio Feltri. Vittorio Feltri due giorni fa all'esordio di In Onda con Francesca Barra, a un certo punto. Vittorio Feltri è uno che non va interrotto, mai, questa è la regola. Tu l'hai mai avuto, Paola Saluzzi? Sì. E devo dire che quando anche interrotto riprende il suo discorso. Vabbè, si vede che tu le stai simpatica, perché sennò se succede come a Francesca Barra, eccolo qua. Io sono molto irritato, ve lo dico sinceramente, adesso mi interrompe lei, gentile signora, a me va benissimo, ma se mi fate una domanda mi dovete lasciare rispondere, perché io vengo qui gratis, mi rompo anche le balle a venire qui, chiaro, perché mi mandate in periferia, in più mi fate ammorbare da un signore, non so se sia musulmano o non musulmano. Ha sbraccato un po', era Shauki che l'ha interrotto, non so neanche se è musulmano o non musulmano, andava lì gratis in periferia, capito? Vabbè, dai, Paola Saluzzi, dice cosa fai oggi alle 3. Su. Allora, oggi alle 3 parliamo di Grecia. Grecia! Grecia. Sarà Sandir, parliamo Grecia. Di Grecia. Grecia. Esatto. Grecia. Mancano proprio 17 giorni. Sì, molto esatto. Bene. E sì, parliamo di Grecia e vediamo che cosa vada a capitare e a vedremo. Ecco, con il magnifico ditasto di Zorba il Greco, è una delle scene più belle della storia del cinema, ma è cinema. E invece cinema. Qua c'è gente che deve vivere e deve proseguire a campare sempre meglio, deve lasciarsi la crisi nera alle spalle, però deve avere gente che glielo permetta. Questo sì. Allora, su Vanity Fair invece trovate Laura Antonelli di tanti anni fa, il ritratto in copertina, e poi scoprite tutto anche sulla DAC, dove Luca Dini, senza la nostra invidia, è andato a fare un reportage. Va bene, vi ringrazio, alla prossima. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, cari ascoltatori, sono le 7:18 minuti. Ben ritrovati, amici debosciati miei. Dai, che mancano, quante abbiamo detto? 17 sveglie all'alba, per quel che mi riguarda, e poi sono vacanze. Allora, oggi parleremo di che cosa? Torneremo a parlare dei rapporti tra noi e l'Islam, i musulmani. Sarà con noi Zedine Elzir, che è presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche Italiane. Avremo con noi, torna anche padre Samir Khalil Samir, gesuita, islamologo, uno dei più importanti al mondo.

ha bloccato la produzione e anche gli stabilimenti dove lavorano 4.500 addetti tra dipendenti diretti e indotto. La Cassazione chiude Monfalcone, questo è su Imprese Territorio, come ci ha detto Mauro Meazza, ma anche impianto sequestrato, si blocca Fincantieri anche sul Messaggero, insomma un'altra situazione simile a quella dell'Ilva, che però non abbiamo il tempo di approfondire, anche perché in diretta su Periscope siamo al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, come sempre a mio insindacabile giudizio. E tra l'altro teniamo la classifica aggiornata sul profilo Twitter mio, Alino Milan, che potete andare a vedere, per ora in testa al Corriere della Sera, ma oggi vince Libero, che dedica mezza pagina. Fammi vedere un po', Lorenzo, come Lorenzo che mi sta riprendendo, come hai tu i calzini corti, calzini lunghi? Non ha calzini. Io posso farli vedere su Periscope, ho i calzini lunghi, ce li ho lunghi. Mezza pagina su Libero, sulla rivalutazione del calzino corto bianco. Ma vi rendete conto, il calzino corto bianco anche sulle monde, il calzino corto bianco non fa più tedesco in vacanza, adesso il calzino corto bianco è fico. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che devozino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Sono ormai quasi le 8:22 minuti, cari ascoltatori. Eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, prima in rassegna stampa, ho letto dello scoop del giornale di Fausto Biloslavo, che più tardi sarà ai nostri microfoni, cioè dei 10 indagati in Italia legati all'ISIS, un paio di famiglie. Notizia di poco fa, avete sentito, sono stati arrestati dalla Digos di Milano, è in corso un'operazione antiterrorismo, perché la domanda che ci poniamo è questa: sono già tra di noi anche alcuni potenziali terroristi? E ce lo facciamo e ce la poniamo questa domanda, i timori aumentano come qualche giorno fa quando in Tunisia succede che un terrorista prende un Kalashnikov e uccide tutti coloro che sono occidentali o comunque non musulmani. E allora ci chiediamo, come lunedì abbiamo fatto, a cosa stiamo assistendo da anni? Questo è il punto sul quale vogliamo tornare. Per alcuni stiamo assistendo niente di meno che a una guerra di civiltà. Noi e loro. Poi chissà chi sono loro, non si capisce bene i contorni. Per Matteo Salvini, per esempio, è così. La guerra è la guerra. Questi bisogna sterminarli, altrimenti ci sterminano loro. Vabbè, ma si sa, Salvini è molto netto. Ma lunedì scorso noi abbiamo avuto tra gli ospiti Domenico Quirico, inviato della Stampa, che è stato 152 giorni in mano ai rapitori, estremisti, jihadisti in Siria. E Domenico Quirico ci ha detto alcune cose interessanti, una che ci ha fatto molto riflettere. Il puro sono loro e gli impuri sono gli altri. E l'impuro deve essere eliminato perché contamina, è il batterio. Per questo c'è la strage, per questo c'è, certo, il massacro. Certo. I miei carcerieri non mi toccavano, perché toccarmi era per loro il rischio di essere contagiati. I puri e gli impuri. Allora, io voglio salutare Ezzedine Elzir, che è presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche Italiane. Buongiorno e benvenuto, Ezzedine Elzir. Buongiorno. Così come voglio salutare padre Samir Khalil Samir, che è un teologo, filosofo, gesuita e noto islamista. Buongiorno e ben ritrovato, padre Samir. Buongiorno a voi tutti. Allora, padre Samir, metterla così, i puri e gli impuri, è una visione troppo radicale o che cosa c'è di verità in quello che ci ha detto Domenico Quirico? No, può essere così proprio perché ISIS è un movimento radicale, il più radicale possibile. Allora, questo può essere una categoria che può esistere, come nel mangiare c'è il puro, il impuro, halal e haram, come in altre cose. non è escluso, ma non è il più grave. Loro per esempio hanno, in tutti i loro discorsi, non parlano mai di occidentali o di cristiani, ma i crociati, perché dietro questo provocano tutta una reazione negativa contro di loro. Parola crociata, tra l'altro, che non è mai stata usata dai storici quando parlavano delle crociate. È un termine entrato nel vocabolario arabo nel XX secolo da traduzioni fatte letteralmente sulle lingue occidentali. Sì. Cioè, è tutto un modo per eccitare questi fanatici contro l'Occidente, qualunque sia, anche la Tunisia entra nella categoria, e per rendere più terribile il contrasto. È tutto psicologico. Certo, è una guerra di tattica psicologica. Sì, di fronte a chi dice è una guerra di civiltà, lei cosa risponde? Ma anche questo, ma è una mancanza di civiltà. Anche i musulmani, il ragazzo di 14 anni che è stato per due giorni torturato, sospeso, eccetera, diceva: ma questo sono disumani. Cioè non c'è più civiltà quando si arriva a questo punto di barbaria, e i musulmani lo sentono così. Ci sono certo pochi, ma pochissimi fanatici che le seguono, ma quelli sono loro stessi già in crisi e pensano di risolvere il problema, perché c'è tutta una ideologia del jihad che sarebbe la morte più bella per un musulmano, l'atto più diciamo più islamico che possa essere. Ma se si chiede a 100 musulmani, penso che 99 direbbero: no, questo non c'entra, cioè, non ha senso. Sì. Oggi diciamo i fanatici appartengono a una minoranza. Tra le varie proposte, e qui vorrei coinvolgere Zedine Elzir, c'è stata quella di Maroni di dire: chiudiamo le moschee, chiudere le moschee per come luoghi di rischio dove si può fare proselitismo. Elzir, immagino che lei respinga totalmente questa proposta. Ma mi dispiace, un governatore deve governare la sua regione invece di chiacchierare e non fa il suo lavoro. Le moschee hanno dimostrato, anche le nostre forze dell'ordine, che sono luoghi di incontro, di preghiera e di sicurezza nel nostro paese. E spesso qualche politico, purtroppo, che non sa governare, che non sa gestire la sua realtà, va a fare dei discorsi che certamente in questi momenti di paura trovano anche una risposta dalla nostra popolazione, perché veramente viviamo momenti difficili, su questo non c'è dubbio. Perché lei l'ha sentito, allora tra poco sentiremo anche padre Samir su questo, perché Samir tra l'altro è nato in Egitto, vive spesso anche a Beirut, conosce il mondo islamico e anche in Tunisia le moschee le hanno chiuse dopo quello che è successo. Però Zedine Elzir, le chiedo un commento. Ha sentito con Domenico Quirico, che è una persona pacata, non è certamente, certo, voglio dire, il leghista, con tutto rispetto, che voglio dire, hanno delle posizioni ben più radicali su questo tema. Ma Domenico Quirico l'ha posta così, cioè, come dire, svegliamoci, guardate che ci sono queste persone, tante o poche che siano, ma ci sono, che considerano l'occidentale un impuro da eliminare in quanto infedele, in quanto non musulmano. Allora cosa stiamo facendo noi e cosa state facendo voi per arginare queste persone? Ma come ha detto padre Samir, che lo saluto, e questi qui lo considerano chi è diverso da loro, che è impuro, che non è il discorso occidente, oriente, musulmani, non musulmani. Loro considerano loro gli unici che sono buoni e gli altri sono cattivi. Anzi, per loro un musulmano che non condivide con loro il loro pensiero è una persona da uccidere. Perciò abbiamo visto e vediamo le vittime di loro, la maggior parte di loro sono musulmani stessi. Cioè, noi venerdì abbiamo visto l'attentato in Tunisia, sì, ma abbiamo visto anche l'attentato in Kuwait, Sì, è vero, c'è stato anche un attentato in Kuwait, in una moschea, è vero. Ma l'abbiamo detto varie volte che è anche un conflitto all'interno del mondo musulmano, tra sciiti e sunniti, per esempio. Io veramente non lo chiamo un conflitto o una guerra, chi pensa che è una guerra lo pensa lui. E questi sono dei criminali, in un'insistenza ci sono dei criminali, criminali che abbracciano la fede islamica, ma sono dei criminali terroristi che cercano di mettere tutto il mondo in conflitto perché loro credano, come ha detto anche padre Samir prima, di creare così la psicologia della paura, sì, così possano vincere. Sa cos'è la cosa che fa paura a persone laiche, a persone normali, che non sono non è il criminale che rapina una banca, che sequestra le persone per a scopo estorsivo, sono criminali che utilizzano la religione come strumento di affermazione di una propria superiorità rispetto a un altro essere umano, cioè si appellano, sbagliando sicuramente, a una religione per dire io sono meglio di te e tu non meriti di vivere perché non segui la mia stessa religione. Però padre Samir, vorrei un giudizio sulla questione delle moschee da controllare. Che vuol dire chiudere una moschea? Chiudere le moschee è un'assurdità, ma controllare le moschee è una cosa che si fa in tutti i paesi musulmani. La Tunisia ha deciso di controllare parecchie decine di moschee che sono dove il predicatore, il khatib, provoca alla violenza, eccetera. In Egitto so che al Cairo decine di moschee sono da anni controllate, non chiuse, cioè con dei megafoni dappertutto, con poliziotti specializzati intorno, in modo che se qualcuno tiene un discorso per eccitare la gente alla violenza, lo prendono e chiudono. Dunque controllo è sicuro. E come è stato detto molto bene dall'imam, loro qualunque divergenza è per loro un cattivo, è un falso musulmano, cioè hanno una tale visione estremista che chi non la pensa come loro deve essere eliminato. Però quando diciamo loro, come li identifichiamo? Con allora, lo Stato Islamico, per esempio? Lo Stato Islamico sono i cattivi, giusto per essere... No, non solo loro, ma loro certamente. Cioè che il progetto si parte dell'Islam autentico, così si presentano. Poi trovano sempre dei versetti o dei detti nella storia che vanno in un senso sempre più rigorista, come nel cristianesimo ci sono dei tradizionalisti estremisti e altri che sono liberali. Ma nella tradizione islamica, soprattutto dopo il wahhabismo, che è la dottrina diffusa in Arabia Saudita, in Qatar e altrove, e che loro diffondono con i soldi. Questo non dobbiamo certo, dimenticare. Con il petrolio, i soldi. Con il petrolio e in Indonesia hanno rovinato questo paese con la loro ideologia. Hanno addirittura nella provincia di Aceh, sono arrivati all'estremismo totale applicando la sharia a modo loro. Cioè più si va, si può sempre trovare uno più estremista. Ora questi sono non solo estremisti, ma estremisti nella violenza. Sì. Un conto è di dire io sono tradizionalista o molto tradizionale. Un conto è di dire uso la violenza per giustificare la mia visione. È quello che loro fanno. E questo è il problema. Infatti voglio ripartire tra un attimo anche dopo la pubblicità. Però Ezzedine Elzira ha capito, cioè la paura del cittadino comune, il cittadino italiano, è quando la religione viene utilizzata a pretesto. Lei cosa risponde a questo? Ma certamente, è la paura di tutti quanti noi, ma questo è l'obiettivo di questi criminali, di questi terroristi. Infatti noi dobbiamo andare oltre la paura, dobbiamo avere il coraggio di essere tutti quanti insieme, invece di fare una propaganda politica di chiudere una moschea o così via, ma di essere tutti quanti insieme e certamente all'interno della nostra comunità dobbiamo lavorare sempre di più contro il pensiero estremista, ma poi dobbiamo essere tranquilli che abbiamo le nostre forze dell'ordine che fanno il loro dovere e le moschee devono essere aperte, perché è stato dimostrato negli ultimi 10 anni nella nostra realtà italiana che una moschea di più sempre un punto di sicurezza. Ma secondo lei devono essere anche controllate, cioè è giusto che vengano controllate su quello che si dice e magari in italiano? Allora, le moschee, dobbiamo essere sinceri, sono già controllate. Mi spiace un politico che non lo sa questo e noi lo sappiamo. Tutte le statistiche dicono anche il Foreign Fighters sono andati via dall'Italia quel 70-80 e tramite l'internet, non tramite la moschea. Stamani proprio c'è un'operazione antiterrorismo, esatto, dove sono state arrestate 10 persone. Questo dimostra che il nostro paese i controlli vive, funzionano, lavora e le cose stanno andando bene. Chi non rispetta la legge e viene arrestato, condannato, ma sì, chi rispetta la legge e vive nel nostro paese in tranquillità, ben venga. L'importante è non creare la paura, e mi dispiace che delle volte qualche politico, invece di tranquillizzare i nostri concittadini, perché di fronte a queste barbarie, come è stato detto anche prima, veramente c'è paura. Ma dobbiamo contrastarla, sì, ma infatti guardi, di questa operazione ne parleremo tra un attimo dopo la pubblicità. Rimanete però con noi, padre Samir e Izzedine Elzir. Ci raggiungerà Fausto Biloslavo, avremo anche Andrea Galli del Corriere della Sera, che è stato in Tunisia per raccontare ovviamente come va lì. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, cari ascoltatori. 40 minuti, siamo con Izzedine Elzir, che è il presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, l'UCOI. Siamo con padre Samir Khalil Samir, islamologo filosofo gesuita. Ci ha raggiunto anche Andrea Galli del Corriere della Sera, che saluto, buongiorno, di rientro dalla Tunisia. Andrea, in Tunisia ovviamente come si vive dopo questi terribili attentati? Com'è il clima, soprattutto nei confronti del cosiddetto Islam radicale o degli estremisti islamici? Ah, io l'ho lasciata l'altro ieri e noi ce ne siamo andati da Tunisi, che giravano voci che ci potesse essere un nuovo attentato, anche perché già venerdì, quando c'era stato il primo attacco, già lo stesso venerdì sembrava che dovesse essere un altro in centro di Tunisi. Poi bisogna sempre capire se siano voci messe in giro per alimentare la paura o ci sia qualche fondamento. La cosa che sta crescendo in Tunisia, almeno da quello che ho visto e sentito io, al di là chiaramente delle prese di posizione rispetto a quelli che stanno facendo questi massacri, è una sorta di addirittura di nostalgia per il regime di Ben Ali. Ma da che punto di vista? Dal punto di vista che si dice dopo la primavera araba, con il progressivo cammino verso la democrazia, si è molto abbassato il livello della sicurezza, perché prima, chiaramente con tutti i punti negativi del regime autoritario di Ben Ali, si riusciva meglio a controllare, beh, c'era una rete di spie chiaramente ossessiva, ma questo permetteva comunque di anticipare di frenare, sì, il radicalismo. Sì, il radicalismo. Adesso invece i controlli sono molto saltati, la stessa polizia si è molto indebolita, non c'è più l'efficienza infatti è da lì che poi purtroppo poi partono situazioni come queste. Vorrei sentire Lorenzo, che ci chiama da Milano. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Lei. Dunque, io vorrei provare ad allargare un po' di più la visuale, perché il fatto che l'Islam si trovi in queste condizioni non vuol dire che i cristiani non ci siano già passati. 5 secoli fa il cristianesimo non era tanto diverso dall'Islam radicale di oggi. Hanno convertito gli indios con la spada, hanno acquistato la conversione degli africani con le medicine, la persecuzione contro i protestanti, la caccia alle streghe. Quindi, qui vedrei le cose in ottica un po' più ampia. Le religioni universalistiche, e in questo caso quelle che si propongono di convertire l'intero pianeta, il cristianesimo ancora oggi con la politica invece con la forza, ma non è molto diverso. Non esageri, Lorenzo. Sì. Cioè, lei vuole paragonare la pressione politica che c'è, che ne so, del cristianesimo, la pressione politica non è molto diverso dal convertire con la forza, con la violenza, con le decapitazioni. La Chiesa cattolica è assolutamente ingerente nella politica, non solo in Italia. E vabbè, questo è un discorso che ci può stare, ma per favore non lo paragoni alla l'ingerenza politica, l'ingerenza della Chiesa nella politica. È un discorso che ci può stare, la posso seguire, possiamo dibatterne in un'altra sede, però non paragoniamolo alla violenza estremista e il terrorismo, ecco perché va bene tutto. Comunque prendo la sua prima parte del discorso e la giro a padre Samir per un commento, quando Lorenzo ci dice in fondo il cristianesimo con la Santa Inquisizione era anche noi ci uccidevamo. Ha capito che prima dice? Di tutto vorrei dire che questo ragionamento è un'assurdità che si ripete spesso. Non si può paragonare il Medioevo con il ventunesimo secolo. Ci sono mille anni tra i due o 500, ciò che noi viviamo tutti alla stessa lunghezza d'onda, tutti usiamo il computer, eccetera, l'auto, siamo tutti nel ventunesimo secolo. Questi paragoni sono solo gente che vive nel passato e vuoi progettarlo sull'oggi. Quanto a dire che il fatto che c'è pressione della Chiesa sulla politica, come c'è anche pressione della politica sulla Chiesa, sulle religioni, questo è un fenomeno dove si cerca di trovare l'equilibrio che corrisponde alla cultura di tale paese o di tale altro. Allora, penso che non c'è nessun paragone con il terrorismo, che anche tutti i musulmani, la maggioranza, la stragrande maggioranza, condanna. Il problema è che c'è nell'interpretazione del testo coranico e nella tradizione islamica una visione estremista da alcuni o letteralista che non permette di ripensare. La forza della Tunisia è che è il paese, penso, islamicamente più aperto nell'interpretazione e per questo è visto dai terroristi come il più occidentalizzato e dunque già da colpire una parte dell'Occidente. E per questo da colpire. No, ma infatti è una lettura interessante questa. Mi scusi padre Samini, intanto insieme a Zedine Elzir, a lei e Andrea Galli, voglio salutare Fausto Biloslavo del giornale. Buongiorno Fausto. Buongiorno. Perché io oggi ho letto la rassegna stampa dicendo uno scoop di Fausto Biloslavo, ci sono 10 indagati in Italia, non ho finito di leggere che alle 8 questi 10 indagati legati all'ISIS sono stati arrestati, o meglio alcuni dei loro parenti, perché alcuni si trovano in Siria. Chi sono questi nuclei familiari che la Procura di Milano ha, tramite la Digos, fermato questa mattina, Fausto? Tutto ruota attorno a quella che io ho battezzato Lady Jihad, Maria Giulia Sergio, questa 27enne originaria di Torre del Greco, ma che viveva in Zago, vicino a Milano, che si è convertita all'Islam, ha fatto un percorso di radicalizzazione e poi lo scorso settembre si è sposata con un matrimonio combinato con Aldo Cobucci, un ragazzo di origini albanesi, perché volevano tutti e due partire per la Siria, si sono arruolati nello Stato Islamico e da là, dal nord della Siria, hanno cercato di attrarre, stavano per riuscirci, anche altri membri, diciamo, di questa famiglia Jihad. Tutta la famiglia appunto di Maria Giulia si è convertita, in particolare la sorella Marianna sembra radicale come lei, e poi sì, ci sono anche degli albanesi coinvolti per questo. Ecco, ma sono diciamo partiti, alcuni sono partiti, ma c'era una minaccia concreta anche in Italia, oppure li possiamo iscrivere ai cosiddetti foreign fighters? Cioè, allora, sicuramente si trattava di volontari della Guerra Santa, così i cosiddetti foreign fighters. In più Maria Giulia incitava anche appunto nelle sue telefonate, le sue contatti via Skype che sono stati intercettati, e incitava a uccidere i miscredenti anche qui da noi, sì, e sognava di morire da martire. Ecco, ma questo quindi... è da capire. E Zedine Elzir cosa sono? Qualcuno qualche giorno fa mi ha detto come il paragone con il terrorismo quando c'è stato in Italia, compagni che sbagliano, cioè lei come li definirebbe, Zedine? Fanatici che vanno isolati, però sa, preoccupa, Allora, ripeto, diciamo, in ogni corbo trovi una parte che è malata, Questo estremismo c'è, c'è stato nella storia, c'è oggi e ci sarà, che diciamo per persone che danno una interpretazione estremista. Ringraziando Dio, come ha detto prima, se abbiamo 70 o 80 foreign fighters a livello nazionale, la maggior parte di questi lo prendano purtroppo dall'internet, che secondo me oggigiorno la base numero uno per questa il detto Stato Islamico, l'ISIS. Persone che vanno all'internet sono contro il sistema, contro la nostra società, sono contro i nostri valori, e oggi va di moda l'ISIS, può darsi 30 anni fa andava di moda le Brigate Rosse, dopodomani può darsi va di moda un altro, chi sì. È diciamo contro il sistema. Infatti non è per caso abbiamo trovato la maggior parte sono diciamo persone appena convertiti all'Islam, che non conoscono neanche cos'è l'Islam. E poi lei dice si fanno proselitismi soprattutto attraverso la rete, attraverso i contatti, questo a ribadire il fatto che non è nella moschea dove secondo lei c'è soprattutto il proselitismo. Però vorrei chiedere anche ad Andrea Galli, condividi Andrea la sensazione che ha avuto, ci raccontava padre Samir, di una Tunisia che è il paese più islamicamente aperto, se vogliamo, più islamicamente laico, se possiamo passare questo termine, e quindi per ciò stesso identificato dagli estremisti come luogo dove colpire, dove affermare la propria supremazia. Sì, assolutamente sì, poi non dimentichiamoci che la Tunisia è stata la prima a far partire le primavere arabe, peraltro è stato lo stato che ha avuto un percorso meno sanguinoso rispetto ad altre nazioni, però non dobbiamo anche dimenticare che la Tunisia ha finora offerto tra i 3.000 e i 5.000, le cifre sono ancora in definizione, ragazzi che sono partiti, sono stati assorbiti dal califfato. La cosa particolare che si sta sviluppando recentemente è che se inizialmente partivano soprattutto ragazzi di zone, di famiglie disagiate, sì. Recentemente lì si sta facendo presa anche su i figli della borghesia di Tunisi, perché sono comunque avvocati. Beh, questo ragazzo per esempio era uno studente universitario, quest'ultimo esatto, terrorista. Esatto, quindi è vero che da un lato è un paese molto progressista dal punto di vista sia dell'impatto della religione, sia diciamo così della situazione politica. Però questo forte inserimento dell'ISIS non è da sottovalutare e si unisce poi chiaramente ai rami dell'islamismo più radicale che comunque la Tunisia ha sempre avuto, che come dicevo prima in una fase lontana nel tempo erano stati magari più avvicinati. Io vorrei chiudere a padre Samir, la faccio sempre questa domanda a padre Samir, lei che è un uomo di chiesa e quindi l'uomo per la pace, però sa... Molti dicono che ci vorrebbero le armi per contrastare lo Stato Islamico. Lei spesso sta a Beirut, in confine con la Siria. Sì. Cioè ci vorrebbero le armi, gli eserciti. Ci vogliono le due cose. Cioè in profondità c'è da ripensare, come l'ha detto, mi scuso di citarlo, il presidente al-Sisi, che ci vuole una rivoluzione dentro l'Islam, rivoluzione dell'interpretazione del testo, cosa che si è fatta nel Medioevo spesso, anzi molto più di oggi, che si è fatto nell'Ottocento e fino a metà del Novecento, ma che si è stata invasa dal fondamentalismo. Dunque un aspetto a livello ideologico del pensiero, dell'intellettuale, eccetera. Ma ci vuole anche una, contro questa violenza, una risposta militare. È lì che non ce la fanno da soli. Cioè, i paesi coinvolti, la Siria, l'Iraq in questo momento ed altri, non ce la fanno, non sono preparati, e perché loro, i terroristi, si mischiano in mezzo alla gente, e dunque se si bombarda, vuol dire bombardare il proprio popolo. È molto delicato, però l'Occidente dovrebbe aiutare a questo livello, che non risolve il problema ma limita la tragedia. E noi dobbiamo tutti aiutare anche il mondo islamico e i pensatori musulmani a rivedere come rileggere la propria tradizione. No, ma anche perché se il problema non lo risolviamo, lo emarginiamo, il problema ci viene a bussare alla porta, e quando ci bussa alla porta non lo fa gentilmente.

maggiorazioni, un piccolo passo verso un'Europa più attenta ai diritti dei consumatori. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Sì, cari ascoltatori, ormai lo sapete, per due settimane andremo avanti fino alle 9.30 con 24 mattino. E allora, visto che abbiamo parlato di noi e loro, noi e l'ISIS, ci sono ancora degli ascoltatori. Prima di affrontare un altro tema, che era rimasto indietro, Anna da Milano, buongiorno Anna. Sì, salve Milan. Eccoci. Allora, la premessa in parte è quello che hanno già detto alcuni dei suoi ospiti. Sì. Cioè, il Corano è scritto in un linguaggio molto antico e quindi le interpretazioni ovviamente possono essere diverse. Sì. Quello che però mi lascia molto perplessa è che da parte del cosiddetto Islam moderato, giusto per dargli un termine anche se secondo me non è molto corretto, sento poco levarsi le voci contro questa cosa. Cioè, mi viene in mente adesso, oppure dico noi una banalità, non le conosciamo, non dico le, magari una banalità, dico una banalità, sì, ma mi viene in mente tutte le varie fatwa che sono state, sì, lanciate nel passato e negli anni. Perché ad esempio un'istituzione così importante, forse una delle più importanti del mondo islamico, che è l'Università dell'Azhar del Cairo, mm-hmm, è l'Azhar del Cairo, sì, perché non lancia ad esempio una fatwa contro queste persone? Adesso guardi, magari dirò una stupidaggine, suggeriamogliela all'imam del Cairo, che è appunto, cioè, l'università coranica più importante del mondo, Al-Azhar al Cairo in Egitto. Anna, la ringrazio. Giuseppe d'Alessandria, buongiorno. Ciao Alino. Eccoci, ciao. Ascolta, io ho sentito questa mattina ancora Salvini dire che bisogna sterminare questa gente. Sì, era da in onda, era. E siccome lui dice c'è una guerra, se parti dal presupposto che c'è una guerra, o ammazzi il nemico o il nemico ammazza te. Perfetto, però questa guerra dove la andiamo a combattere? Cioè, lui dice in Siria, guerra, lì dove c'è, allora c'è lo Stato islamico. Lo Stato islamico, c'è in Siria, c'è in Iraq, cioè, che fronte si aprirebbe? Cioè, e poi un'altra cosa, i vari foreign fighters nel momento in cui, diciamo, l'Italia va a dichiarare guerra allo Stato islamico, vanno a combattere là o si aprirebbe un fronte quasi mondiale a questi, sì, punti? Cioè, ma è chiaro, questo è il dibattito. Il dibattito farlo, io credo, però chiaramente hanno altri strumenti. Questa gente qua, chi la finanzia? Cioè, vediamo che hanno un dispiegamento di forze. Ma l'abbiamo detto, molti paesi arabi, ce l'ha detto anche padre Samiri, il Qatar, l'Arabia Saudita, esatto, dove c'è, dove c'è l'estremismo. Ecco, allora, possibile che la comunità internazionale, cioè dagli Stati, sì, Uniti, l'Europa, non sono in grado di andare da questi, che poi sono due o tre paesi, non sono poi tantissimi. Non sono paesi così banali. L'Arabia Saudita, tipo, c'ha un po' di petrolio. Ho capito che l'Arabia Saudita c'ha un po' di petrolio, però voglio dire, tutta la comunità mondiale è tenuta in scacco da due paesi, poi diventiamo islamici anche noi, no, cioè, e questo è il problema. Certo che se noi ci mandiamo la Mogherini a trattare, mi rendo conto che questi forse si fanno una risata. Allora, la ringrazio Giuseppe. Allora, cambiamo tema. 800 24 00 24, il calcio. Certamente lo sport più amato e praticato dagli italiani. Suscita passioni, palpitazioni, amicizie, anche rivalità accese. Dai, non si vive mai il calcio in maniera sana, no? Lo si vive, no, molti lo vivono in maniera sana, ma spesso si vive anche senza mezze misure. Solo che in Italia da anni chi ama il calcio si fa questo tipo di domanda: ma è ancora uno sport pulito? Cioè, mediamente pulito, ci sono le mele marce ovunque, per carità, perché qua non passa giorno senza che non ci sia un ennesimo scandalo legato alle scommesse. L'ultima è quella del Catania, no? Con il presidente del Catania che alla fine, pizzicato, ha dovuto ammettere di essersi comprato 5 partite per evitare che il Catania finisse dalla Serie B alla Serie C. E poi ci ritroviamo con un CT della Nazionale, Antonio Conte, che molto probabilmente verrà rinviato a giudizio per frode sportiva per la vecchia vicenda dei calciopoli nel 2011. Insomma, questo calcio lo si può vedere ancora con gli occhi genuini di un bambino che guarda le gesta sportive di Messi? Carlo Genta, ciao, come stai? Ciao Alessandro, molto bene. Tu molto che bene. Tutti i giorni alle 2 con tutti i convocati ci convochi e ci parli di questo. Intanto voglio salutare te, voglio salutare anche Marco Mensurati di Repubblica. Buongiorno Marco e bentrovato. Buongiorno a voi, grazie. Allora Carletto, si può guardare ancora? Io quando vedo mio figlio che guarda le gesta sportive di Messi non oso dirgli nulla, mica gli direi guarda che però il presidente del Catania si compra 5 partite, ucciderei in culla un sogno, però il calcio si può vedere ancora con questi occhi? Ma tu eri piccolo, ma ti ricorderai nell'80 i cellulari dei carabinieri che andavano ad arrestare i giocatori in campo. Come no, come quindi, no. Quindi possiamo dire, abbiamo mai potuto guardarlo con questi occhi? Forse la risposta è no, perché è un movimento che importante, che muove tanti soldi, che muove tante persone, che muove tanti interessi. È una grande comunità e in ogni grande comunità, chiama le mele marce, chiama i delinquenti, ci sono. Poi devo dire che adesso abbiamo ulteriori garanzie dal fatto che vuoi grazie al continuo monitoraggio, vuoi grazie all'attenzione mediatica per tutte queste cose normalmente loro signori vengono pizzicati. Sì. Che poi vengano puniti adeguatamente, questo è un altro discorso. Valgono leggi e regolamenti, anche perché se al telefono dirigente del Catania dici io punterei sul treno delle 3:33, oppure dice, una volta addirittura uno pare che abbia detto punterei sul treno delle 33, insomma lì anche un magistrato un po' distratto gli è venuto il dubbio che forse non stessero parlando di orari di treno. Posso dire, se a uno non importa niente del calcio, non gliene frega niente di tutto questo movimento, sì, e legge questo intercettazioni e sente questa storia, beh, sembra un film di Totò e Peppino. Esatto. Cioè ha degli aspetti molto fa vomitare, siamo tutti d'accordo, però ha degli aspetti quasi comici, sì, tutta questa storia. E un giorno sono i treni, un giorno sono le melanzane, un giorno sono i muratori, e poi ieri è saltata fuori la storia della maga. Ah, la maga. Questa è bellissima, sì, perché a un certo punto esatto, sì, a un certo punto è entrato dentro anche Lotito. Come mai il presidente del Catania lo chiamava? Attenzione, Lotito trema. No, alla fine è perché gli consigliò Stefania l'esorcista. È persona fidata, l'ho conosciuta tramite un prete, e Pulvirenti fa fare anche un esorcismo allo stadio, sì, cioè capite, sì, che ecco, vabbè, sì, c'era Costantino Rosi che buttava il sale, sì, e c'è Lotito che va dalla maga, prima da quella di Catania però non funzionava tanto bene, poi va da un'altra che invece, esatto, è laureata, è più brava, esatto, e magari funziona. No, semplicemente è una storia di malaffare, mm-hmm, una storia di malaffare che presenta degli aspetti, ripeto, abbastanza grotteschi, sì, che è stata smascherata in tutta la sua, credo, in tutta la sua virulenza, e penso e verrà sradicata. Il problema è, e qui vorrei coinvolgere anche Marco Mensurati, e ci troviamo invece forse la situazione un po', per chi sempre ama il calcio, ama poi la nazionale, adesso ci ritroviamo anche per strascichi della vicenda del 2011 con un CT della nazionale, Antonio Conte, che verrà rinviato a giudizio, questa è almeno la richiesta del pubblico ministero Di Martino. Mensurati, è davvero circoscrivibile ad alcune mele marce da isolare, oppure il mondo del calcio, come si usa in una frase molto abusata, è malato? L'impressione che si ha vedendo anche l'aumentare della frequenza con cui gli scandali travolgono un po' tutto è che le mele marce siano l'intero cesto, e in questo caso secondo me diventa anche una follia cercare di distinguere le mele marce da quelle buone, ed è secondo me in questo errore che risiede la situazione drammatica in cui siamo finiti, e in cui secondo me se non si fa qualcosa di strutturale di qui in avanti ogni 3-4 settimane ne vedremo una. Il punto cosa è che si può fare di strutturale? Ma si doveva fare forse prima, ma si può fare ancora oggi forse qualcosa, anche se il grande errore secondo me è risale al 2011, quando dopo lo scandalo di Cremona come dire dimostrò che erano interessati un 150-180 giocatori in tutte le serie, e lì si doveva capire che non era appunto un problema di mille marce, ma era un problema che il sistema non era non era stato in grado di proporre risposte allo stravolgimento dei meccanismi, no? Fino a poco tempo prima c'era il Totocalcio, poi il Totocalcio è andato via, è stato insomma ridotto come dimensioni, sono state introdotte le scommesse sportive, il sistema era mutato naturalmente, è mutato lo sport, no? Negli anni in cui si parlava prima, lo sport era un fenomeno popolare, adesso è un fenomeno borghese, il consumo era allo stadio, oggi il consumo è in poltrona, i soldi li facevamo con la schedina, adesso li facciamo invece con le scommesse. Voglio dire, c'è stata una rivoluzione che ha cambiato la natura di tutto, sì. Il calcio non è stato in grado di fornire delle risposte, ci siamo trovati con un magistrato che, partendo da un cretino che aveva dato il sonnifero ai compagni di squadra, sì, è arrivato a indagare con 200 calciatori. Sì, allora, tra l'altro hai citato la questione delle scommesse, su questo vorrei un vostro parere, Carlo Gente e poi Marco Mensurati, perché qualcuno dice sono le scommesse, laddove un giocatore di una serie minore, ma succede anche ai giocatori delle serie maggiori che guadagnano molto, ma laddove un giocatore di una serie minore guadagna magari 3.000 euro al mese o 2.000 euro al mese o 1.500 euro al mese, ma può vendersi una partita e guadagnare e puntare contemporaneamente sulle scommesse e guadagnare 100.000 euro, che ne so, Carlo Gente, qui sta un po' il problema, che non vuol dire aboliamo le scommesse, però vuol dire facciamo qualcosa per controllare. Ma le scommesse per i tesserati sono proibite, sì, e questo, certo, lo sappiamo, è l'ingordigia di questi ragazzini, perché di ragazzini si tratta. La cosa che la gente non riesce a capire ancora adesso, e Marco lo sa bene, è che lui parlava di 200 calciatori indagati a Cremona eccetera eccetera, quello che la gente non riesce a capire e non vuole capire, e ha ragione, è che è come diversi di questi siano tuttora in campo, idoli dei tifosi quando fanno un gol. Questo secondo me non è ammissibile, quindi se si parla di riforme strutturali bisognerebbe partire da questo. Io sarei per questo, come per altri discorsi come possono essere quelli relativi al doping, io sarei per pene draconiane, cioè nel senso, ti beccano una volta, il processo deve essere rapido e tu sei radiato perché hai molto da perdere. A quel punto, forse ci penserebbero un po' di più, certamente eviteremo queste cose inopportune, che sono quelle di vedere giocatori in pendenza di giudizio, vediamo come va, sono stati in prigione. Capito il Carletto Gente, a colpirne uno per educarne 100. No, ma guarda, io sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te, perché di questi, Marco, poi molti sono tutti, sì, tutti giocano, no? Ragazzi. Ma partiamo dal presupposto che il capitano della nazionale, Gianluigi Buffon, la finanza gli ha trovato 1.800.000 euro spesi, per non meglio identificati acquisti, presso una tabaccheria ricevitoria, e che nessuno si è mai preso la briga della Federcalcio o dei tifosi. 1.800.000, che ti spendi 1.800.000 euro in tabaccheria? A Parma. Sì. E nessuno ha mai fatto la domanda a Buffon davanti, che ha comprato, che cosa, Rolex, a un certo punto si buffonchiava, oppure case, non si è mai capito, poi in tabaccheria. Ora voglio dire, il nuovo allenatore della Juventus, Allegri, è stato uno dei primi a creare il sistema del calcio scommesse, famosissimo, subito dopo l'uscita di scena del Totocalcio in una partita di Coppa Italia, che è la prima grande partita del nuovo calcio scommesse. Il problema qual è? Che se noi andiamo a cercare mela marcia per mela marcia, bisogna stabilire cosa si intende per mela marcia e dove Allegri, giusto, sul tuo giornale Repubblica ha concesso un'intervista di recente a dire che non è, che sì, è finito anche lui in questa cosa, ma non per errore, andare su Google, c'è la sentenza pubblicata, le varie sentenze pubblicate in cui è tutto molto chiaro, anche Allegri l'ha fatto, ma non è un problema di Allegri, è una vicenda vecchissima. Il problema è che cosa intendiamo per mela marcia. Allora, probabilmente sarebbe più onesto ammettere che il calcio ha un problema strutturale, sarebbe stato onesto fare probabilmente un'amnistia nel 2011, magari vincolata al pagamento cospicuo di una multa o comunque di una restituzione di denaro, che come sappiamo poi resettare, nel portafoglio fa sempre bene, cacciare una volta per tutti le vere mele marce del sistema, che sono quelle che lo governano ininterrottamente da una cinquantina d'anni, cambiano le facce, ma poi si assomigliano anche fisicamente. Sembra che quando uno diventa presidente della FCC viene quella faccia lì. Indipendentemente da come era prima. Adesso. Quindi cacciare chi non ha saputo gestire il passaggio drammatico, il cambiamento, e chi ha fatto finta di gestirlo, è ripartire. Insomma, repulisti. Forse... Ma sentiamo qualche ascoltatore su questo. Marco da Bari, buongiorno Marco. Ciao, buongiorno. Allora, niente, io mi voglio replicare sia a quello che diceva Marco, sia nel nome che nei contenuti, perché fondamentalmente, insomma, ha parlato a largo spettro, quindi condivido appieno tutte... Che cosa condivide di Marco Mensurati? Allora, fondamentalmente il discorso che strutturalmente il calcio è malato, e quindi se prendiamo in considerazione che Blatter, insomma, si è trovato in un casino della Madonna per il discorso dei mondiali passati e di quello che c'è stato, insomma, possiamo comprendere che se il pesce puzza dalla testa, figuriamoci. Quindi dice, i problemi sono i vertici. Sì, perché se poi il vertice si comporta in un certo modo, dà un esempio sbagliato. I vertici, lei dice Marco, no? Che così do spazio anche ad altri. Sono tante telefonate. Giuseppe da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti, niente, volevo dire che ormai il calcio sano è tramontato da un bel po'. Chi ha 10, massimo 15 anni crede ancora negli idoli, nel calcio vero e tutto quanto. Poi in attimino che si cresce si capisce che purtroppo è il sistema che ha voluto questo cambiamento del calcio, nel senso che prima c'era bellissimo la schedina, fare la coda un'ora. Vabbè, ma c'era il calcio scommesso anche lì, Giuseppe, se sì, non ricordo. Però era meno di oggi, voglio dire, l'accanimento. Giravano un po' meno soldi, forse. La Pay TV non c'è mai stata. Ascoltavamo le partite dalla radiolina. Lei è nostalgico per un altro. No. Sono nostalgico del bel calcio. Sì, del bel calcio. Però a me dobbiamo accontentarci, nonostante. Vabbè, ma lei ha una nostalgia anche di quel calcio che fu, anche nei gesti, nei modi di fare. Massimo da Lecce, buongiorno Massimo. Salve, buongiorno. Guardi, a me la cosa che spaventa è semplicemente il fatto che questi avvenimenti accadano anche a livello dilettantistico al settore giovanile. Quindi anche sì, addirittura, perché ho testimonianze dirette, e quindi queste cose qui dovrebbero essere sanzionate in un modo molto più rigido da parte della federazione. In che senso ha testimonianze dirette lei? È nell'ambiente calcistico, nel senso che alleno delle squadre di calcio dilettantistiche, parlo dei settori giovanili, e nel corso degli anni ti senti dire le ultime gare di campionato il presidente o il direttore sportivo inseriamo i ragazzi più deboli perché facciamo vincere quella squadra per non far scendere la squadra dai regionali ai provinciali, stiamo parlando in questi termini, sì. Quindi che esempio stiamo dando? Cioè, non esiste proprio, è dall'alto che dovrebbero venire punizioni esemplari in modo da far sì che questi comportamenti vengano. A me è interessante, Carletto, hai sentito? La linea dura anche da chi vive il mondo del calcio a livello dilettantistico è quella. Ma è corretto, non ho dubbi. Purtroppo è una maleducazione radicata, cioè è qualcosa che è insito nella nostra mentalità. Non voglio sentire solo adesso è così, prima era meglio, prima era più bello. Sono cose che sono sempre state. Quindi dagli anni 70, agli anni 80, il caso del calcio scommesse clandestino, te l'ho ricordato prima, che sconvolse la Serie A. È un malcostume che c'è sempre stato, non si può dire che si comportano così, allora va bene tutto. Perché alla fine bisogna, secondo me, punire le responsabilità individuali. Sì. Tu trovi qualcuno che ha rubato, e allora lo colpisci duramente, e sono d'accordo con Marco, anche dal punto di vista economico, perché non solo radiazione, ma a quel punto risarcimento dei danni da parte di tutte le persone colpite. Questi hanno la prospettiva di finire senza lavoro e in mutande. Vabbè, vogliamo poi, almeno poi vogliamo, viene a dire se, no, se hanno voglia ancora di farlo. Vogliamo però, per concludere, dare un messaggio di speranza, a dire io posso sempre dire a mio figlio che Messi quando fa gol è sempre Messi comunque, no? questo no, questo è evidente, perché dobbiamo guardarlo per quello che è. È, sì. È uno spettacolo, è il gioco più popolare al mondo. Alla fine si fa una scelta di principio: o ci crediamo, lo guardiamo allo stadio in televisione, oppure cominciamo a dire è tutto finto e lasciamo stare, andiamo al circo. Allora, Carletto, intanto tu alle 2, ovviamente, tutti convocati, sei sempre pronto. 14 da Expo, giusto, è vero, anche oggi trasmetti da Expo, tutti convocati dalle 14 qui su Radio 24 con Carlo Genta. Ringrazio anche Marco Mensurati, giornalista di Repubblica, ovviamente. Tu, Marco, hai scritto un libro, adesso non ce l'ho sotto mano, ricordami tu il titolo, quando hai scritto quel libro su... Lo zingaro e lo scarafaggio, sulla storia del calcio scommesse. Fantastico. Quanto a tuo figlio, incoraggiamolo ad andare a giocare, che è meglio che sì, vedere. Ma guarda, invece non riesco a mandarlo perché perché preferisco fargli fare altri sport, perché sennò c'è l'altro problema dei genitori che gli dicono spaccagli la gamba ai bambini di 6 anni, anche quello mi frena un po', sono un disastro. Comunque grazie a Marco Mensurati e Carletto Genta, noi ci troviamo domattina alle 6.30 con 24 Mattino. Da Peter Bescapè in regia e da Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni ed Elisabetta Fusconi in redazione, oltre che da me, da Alessandro Milan, un augurio di buona giornata domani.